sé yo, viene lento divagar una música brutal, encendió nuestra pasión. Melog 2.0 2.0 di Gianluca Nicoletti. Quella dei ladri che ci entrano in casa è una vecchia storia, antica come il mondo. C'è sempre stata una vasta e corposa filmografia o narrativa sul ladro che entra nottetempo in casa. Entra nella notte come un ladro nella notte, esiste anche una parabolistica sul tema. Ma ultimamente sembra che sia una paura sempre più concreta, sempre più percepibile a livello comune, soprattutto quando i ladri entrano in casa e lambiscono persone che fanno parte del nostro immaginario. Accento straniero, armati di coltello, una torcia sul viso della vittima per non farsi riconoscere. Banditi forse slavi, quelli piombati nel cuore della notte a casa di Renzo Arbore. Il colpo è avvenuto stanotte in via Cortina d'Ampezzo, in una delle zone più eleganti della capitale. I rapinatori sarebbero entrati da una finestra cogliendo Arbore nel sonno, in casa anche una collaboratrice domestica. Nessuna violenza per fortuna da parte dei delinquenti, a parte la minaccia della lama grazie alla quale si sono fatti consegnare dal presentatore soldi e preziosi per un bottino che le forze dell'ordine stanno ancora quantificando. Uno pensa che se i ladri riescono a entrare nottetempo a casa di Renzo Arbore, che è un personaggio caro ai telespettatori, agli appassionati di musica, ai cultori del revival legato agli anni d'oro della nostra gioventù, potrebbero entrare veramente ovunque. Ma il fatto che possano entrare ovunque ormai è dato per scontato. Anche coloro che si sono muniti dei più sofisticati apparecchi di protezione delle porte di casa propria sono stati ulteriormente minacciati da singolari annunci dove dicono guardate che oggi i ladri sono muniti di un nuovo strumento che riesce a violare anche la serratura più sofisticata che avete, e viene spiegato come questo tubo d'acciaio può scardinare anche le nuovissime serrature, perlomeno che tutti pensavano che fossero nuovissime. Quindi il risultato qual è? Il risultato è che le persone cominciano a dormire con un occhio solo e cominciano a pensare di produrre ulteriori sistemi di sicurezza alle proprie abitazioni. Un colpo da professionisti, 3 minuti e via con il bottino, 100.000 euro in oro e diamanti, in piena notte, in pieno centro di Milano. Beffata la vigilanza e i carabinieri, intervenuti a tempo di record, in 6 minuti appena, la serratura blindata della showroom viene aperta in pochi secondi con una tecnica mai vista finora, il sistema d'allarme viene neutralizzato con un getto di schiuma. Hanno portato via tutto ciò che era in vetrina, non hanno perso tempo, con i pezzi più preziosi custoditi in cassaforte. Un colpo grosso comunque, almeno 100.000 euro secondo le prime stime. Si spera di trovare elementi utili alle indagini dall'esame delle immagini registrate dalle telecamere a circuito chiuso del negozio. Sì, perché l'upgrade tecnologico, il progredire dei sistemi tecnologici che rendono facile, felice ed espansa la nostra esistenza, la nostra vita relazionale, naturalmente hanno lo stesso effetto a casa dei ladri. Oggi chi fa della professione e della sua esistenza l'entrare in casa altrui e rubare i beni altrui, naturalmente ha una gamma vastissima di tecnologie pronte a annullare, a rendere vane tutti gli impianti di allarme, di sicurezza, di prevenzione del furto che noi abbiamo in casa. Ogni cassaforte è diversa dalle altre. Ci sono quelle con le sbarre a crociera, quelle triangolari e quelle circolari. La chiusura è tutta tenuta, senza fessure. Dunque, un modo per aprirla è quello della dinamite. Il sistema che usava il famoso Fu Chi Minh. Fu Chi Minh? Chi è un cinese? Ma che cinese? Veneziano era. Fu sarebbe che morì. Chi Minh è il cognome, no? Poveracci. Saltò in aria con tutta la cassaforte. Quindi è un sistema che io escludo al priore. Esiste naturalmente un'iconografia romantica del ladro, una specializzazione che ha a che fare con una sorta di arte, di quintessenza esoterica, di un sapere che probabilmente fa meno male in realtà di quanto uno possa pensare. Il Totò dei soliti ignoti era il 58. Gli italiani cominciavano ad accarezzare l'idea di tenere il malloppo anche dentro casa, perché cominciavano a entrare i soldi. Era inconcepibile, impensabile una famiglia famiglia media italiana, avere dei soldi in casa o essere appetibili o avere beni appetibili per i ladri. Beh, con l'aumentare del benessere cominciava a crescere la paura di qualcuno che potesse approfittarsi di questo nostro benessere consolidato. Ma molto di più, i ladri che entrano in casa violano la nostra privatezza. La sola idea che persone possano frugare nei propri cassetti, mettere il naso nelle proprie cose care, calpestare laddove calpestiamo noi, calpestano i nostri bambini, le nostre famiglie, atterrisce chiunque. 800 24 00 24, quanto siete stati toccati, lambiti, sfiorati, feriti, vilipesi dal furto in casa, quanto questo rappresenta una paura nella vostra esistenza. Non mollate, la padella. Chi c'è la padella? Io? Ma non è che sfondiamo anche la cassaforte, vero? Magari, sta più a sinistra, all'angolo. Bella comare mia, chissà quanta roba c'è dentro. E chi può dirlo? Zitti, ci siamo. Poi io sai che faccio? Mi faccio una bella amante, gli do 25.000 lire al mese, magari 30, guarda. A capanne. Dimmi bene. Invece di parlare dell'amante, fammi aprire un bicchiere d'acqua, che c'ho sete. Forza te, dai dietro. Ma cosa fate lì? E levati! Abbiamo sbagliato parete. Sembra oggi tutto molto più semplice, sortono le leggende e le realtà su quelli che sono i ragazzini arrampicatori, i finti venditori, gli specializzati che vengono da paesi lontani con tecnologie a disposizione che noi nemmeno immaginiamo. Già arrivano le prime segnalazioni, il primo percepibile segno della paura. Anna Maria mi scrive su Facebook: a casa mi hanno sfondato la porta in pieno giorno. Nessuno ha sentito nulla, hanno completamente messo tutto a soqquadro. I miei gatti erano terrorizzati, nascosti in un angolo del balcone. La cosa più fastidiosa sono le mani strane tra le tue cose, quello che dicevo prima. Fortuna che non c'era niente da rubare. Un bel danno alla porta e alla salute psichica mia e dei miei cari. Abbiamo questa mattina intenzione di fare una sorta di servizio, per quanto sia possibile, di farlo alla radio semplicemente parlando. Vorremmo da una parte raggruppare le vostre idee e capire quanto questa paura generalizzata, questa percezione di un nuovo pericolo antico ma quanto mai esteso a tutte le latitudini, a tutte le borse, a tutte le classi sociali. Non sono più soltanto i ricchi che devono temere, ma temono un po' tutti. Chiunque abbiano a casa ha un luogo in cui bene o male qualcosa può essere preso, o comunque qualcuno può entrare a mettere il naso. 800 24 00 24. Abbiamo già Antonello. Antonello, buongiorno. Sì, buongiorno. Volevo semplicemente esporre una mia opinione. Sono d'accordo in parte con quello che ha detto sul fatto della funzionalità dei sistemi e degli impianti d'allarme. Volevo dire solo questo, che il professionista che entra nella gioielleria di cui abbiamo sentito il servizio piuttosto che a casa di Enzo Arbore, è munito di strumenti che possono evadere dei sistemi di allarme, ma la massa, tutti noi che abbiamo il sistema di allarme a casa, quello è assolutamente sufficiente a filtrare non il professionista che non viene a casa mia o a casa sua, ma i ladruncoli comuni che comunque farebbero dei danni, se non addirittura l'incolumità delle persone. I classici ragazzini col cacciavite, di cui esatto, si sente molto. Esatto. E poi lei sa benissimo che se uno si alza, se lo trova davanti, non si sa come finisce. Quindi, per difendere la categoria degli impiantisti, di chi lavora nei sistemi d'allarme, le assicuro che andando a guardare le statistiche della polizia, dei carabinieri, eccetera, di furti sventati. Lei è un impiantista? È un professionista di questo settore? No, io lavoro nelle telecomunicazioni, sono uno però che ha un sistema d'allarme, e le assicuro che hanno tentato di entrare in casa mia, è suonato l'allarme e sono scappati via. Cioè, se non ci fosse stato l'allarme, come è successo al vicino di casa mia, allora sono entrati, gli hanno fatto un bel po' di danni e lui era lì dentro che dormiva. Posso dire una cosa però? sarebbe banale quello che dico. Io sento spessissimo, anche diciamo nell'area in cui abito, suonare nottetempo allarmi. Molte volte scattano, soprattutto in questa stagione, carici di corrente, sovraccarichi, e non succede mai nulla. Intere ore di notte con l'allarme acceso, nessuno viene, nessuno interviene, nessuno si affaccia. Se ogni tanto si affaccia qualche signore e lancia improperi al nulla, al buio, però non viene nessuno. Ma le posso dire quello che mi disse chi mi venne a installare l'allarme a me, perché gli posi la stessa domanda. Ho detto: guarda, se mi devo svegliare io di notte perché mi suona l'allarme, devo disturbare gli altri. Lui mi disse: ascolta, ci sono allarmi da due soldi, come degli allarmi che hanno, diciamo, un'affidabilità e sono calibrati per non avere dei falsi allarmi. Io le devo dire, con il mio allarme, che non faccio nome ovviamente, che mi ha installato il mio installatore, non ho mai avuto problemi di falsi allarmi. L'unico, certo, io devo dire che c'è chi pretende di proteggere casa sua con quelle finte telecamere che vendono i cinesi, che si accende il LED rosso, sembra una camera di sorveglianza, ma in realtà è una scatola di plastica. Certo, quello voglio dire, ma anche lì, però, se posso esprimere la mia opinione, il ladruncolo comune, sì, forse c'è chi non riesce a distinguere quella vera da quella falsa, però oggi la tecnologia, insomma, io non ho pagato tantissimo per avere un ottimo impianto d'allarme, proprio perché adesso l'elettronica, i costi dell'elettronica sono bassi e fortunatamente ce lo possiamo permettere. Però è ovvio che un Renzo Arbore, una gioielleria, eccetera, non ha un impianto d'allarme che può essere quello che ho a casa io, perché deve difendersi da dei professionisti del settore, parlo dei delinquenti professionisti, per cui deve montare dei sistemi sofisticati che hanno dei costi, presumo, molto diversi da quelli che devono difendere la mia sì, realtà. Devo dire che comincia a essere angoscioso dover vivere a casa come se fosse Fort Knox. Massimo, buongiorno. Ciao, buongiorno. La mia esperienza personale con il furto è stata nel 1988. La sensazione che ho avuto non è stata quella di un guaio di carattere economico-finanziario, ma è stata un sentimento di violazione intima. Anche se in casa non c'era nessuno, io ho recepito la cosa come quasi come uno stupro, una violazione intima. Sì. Non so se si capisce. Sì, sì, si capisce. Diciamo che le due cose sono paragonabili soltanto come esempio. È vero, l'ho già accennato io, sono convinto che una delle cose che più infastidiscano sia che persone sono entrate a casa nostra senza il nostro permesso, comunque hanno messo le mani nelle nostre cose. Ma volevo questa mattina, come ho già annunciato, darvi anche delle nozioni di tipo pratico. Il nostro ascoltatore ha accennato alla sicurezza degli allarmi senza entrare nello specifico, nelle marche e nelle tipologie, però qualche idea possiamo farci. Abbiamo ospite questa mattina Ciro Raia, buongiorno. Buongiorno. Responsabile della Pesca, un'azienda specializzata in sistemi antifurto, antintrusione per edifici civili e industriali. Lei sarà d'accordo con il nostro ascoltatore che in realtà esistono i sistemi sicuri? Sì, sì, anzi l'intervento mi è piaciuto. Difatti ho avuto anch'io l'impressione che era un installatore, difatti ho fatto la stessa impressione a lei. Quindi in realtà direi a livello professionale la frase giusta è prevenire anziché curare, questa è una. Dopodiché lui menzionava Arbore, no? Sì, oppure, perché è il caso, diciamo, di cronaca che più ha impressionato, infatti, uno non se l'aspetta. Infatti. Anche uno pensa che i personaggi noti abbiano comunque dei sistemi di sicurezza terrificanti, ma probabilmente non è mai così, non è sempre così. Ma guardi, i sistemi di sicurezza sono componibili, come una cucina. Quindi per cui tecnicamente bisogna pensare al grado di sicurezza. C'è l'antifurto o l'antintrusione, è un impianto che si può costruire ad hoc a casa del cliente facendo insieme al cliente una giusta intervista. Quindi cosa vuol dire? Che ognuno a casa propria ha i suoi beni, no? Quindi per cui bisogna fare una giusta intervista, quindi l'installatore professionista. È venuta fuori anche la frase professionalità, no? Quindi, però se vogliamo dare una gradualità agli interventi, allora mi sembra di sapere che la maggior parte dei ladri o degli intrusori entrano dalla porta. La porta è il luogo in cui entrano per primi, quindi la prima attenzione è essere fatta alla porta di casa, immagino. Quando parliamo di appartamento, sì. Cioè, quindi quando siamo in un appartamento, quindi in una casa fatta a piani, probabilmente noi avremo l'intrusione dalla porta. Quando invece si tratta di una villa, quindi una isolata, eccetera, l'intruso ha varie, diciamo, possibilità di accesso, no? Quindi può entrare da quella più semplice o quella più nascosta, eccetera. In tutti e due i casi comunque gli ingressi possibili vanno protetti, quindi si deve fare focus, sicuramente fare attenzione effettivamente, insieme all'intervista che dicevo prima, l'installatore deve tener conto che lui è uomo e quindi può valutare, no, la semplicità di accesso. In realtà può simularsi, no, nella testa, cioè, quindi diciamo in però generale... C'è anche da dire che ci sono oggi soprattutto squadre specializzate di intrusori, i famosi bambini addestrati che salgono addirittura dalle grondaglie degli appartamenti. Non è più leggendario, perché ogni tanto poi si capisce, si vede, si sa, o non ci si spiega mai come possono essere entrati in casa da una finestra che è difficilissima come accessibilità. Sì, sì, l'arrampicatore purtroppo esiste, io sono vecchio del mestiere, faccio questo lavoro da quasi 40 anni, quindi per cui in realtà l'arrampicatore c'è sempre stato. E proprio in questo caso, cioè ad esempio l'arrampicatore giustamente non è che diciamo vola, quindi ha sicuramente degli appigli, tipo il tubo del gas, la gronda, quindi ci sono piani, ad esempio dei balconi fatti sovrapposti ma leggermente sfalsati, quindi sono atteggiamenti che l'installatore dovrebbe comunque tenere conto. Oggi comunque la domanda che lei ha fatto ha una risposta. L'impianto va fatto comunque perimetrico, perimetrico sta per impianto sul perimetro della casa, quindi proteggerci anche quando siamo in casa, perché lei comunque menzionava prima che il rischio grosso che stiamo correndo è anche quando viviamo. No? Sì, diciamo che guardando le ultime cronache, i casi più frequenti sono di furti con persone dentro casa. Io ho avuto, certo, tantissimi amici che tranquillamente dormivano in camera con il bambino piccolo e via, e delle persone sono entrate e hanno svaligiato casa e loro non se ne sono nemmeno accorti, dicono. Ma esiste anche questa idea che narcotizzino poi gli abitanti della casa? Sì, lì si sta valutando, difatti noi siamo una di quelle aziende che ci stiamo insomma disponendo per impianti che rilevano il gas, cioè tipo gas narcotico a titolo di cronaca, quindi siccome ci sono due tipi di gas, volatile e non volatile, quindi ci vorranno due tipi di sensori. Proprio nei pressi delle zone notte si metteranno sicuramente su tutto il perimetro, però quando avverrà questo, se suona il rivelatore potrebbe rilevare il gas, suona quando sei ancora sveglio e quindi in qualche modo ti puoi difendere, insomma, via. Quindi questa è una, e anche qui si apre, anche qui si apre un'altra parentesi. Cosa si fa se uno sa che ci sono i ladri in casa? Non so. Guardi, normalmente quando si inizia a fare rumore, si accendono le luci, eccetera, loro raramente, diciamo, se non c'è, tornando al discorso del grado di sicurezza, cioè se non c'è il bottino di Fort Knox oppure diciamo vale la pena rischiare tanto, se ne vanno. Quindi, senta lei, per la sua esperienza, visto che ha 40 anni di esperienza, da quando inizia il livello di attenzione, cioè quanto occorre essere ricchi secondo lei per temere i ladri in casa? Perché mi sembra che ormai non ci siano più discriminazioni, non c'è entrano ovunque. Difatti, perché c'è la vecchia idea, a casa mia non vengono, tanto non c'è nulla, non vale più. No, non vale più, ma non è mai valso questo pensiero. Le faccio un esempio. In Italia negli ultimi anni, ad esempio, io ho visto molto spesso che subiva il furto il signor Rossi e poi i bianchi, gialli e verdi mettevano l'impianto di sicurezza, perché lui lo metteva poi magari tanto dopo, si sentiva tranquillo, nel senso si reputava a posto perché aveva subito il furto a titolo di cronaca. Quindi in realtà è sempre la persona diciamo media, no, che subisce il furto, perché la persona, diciamo, la grande gioielleria oppure il grande personaggio è protetto non solo magari da un impianto di antintrusione, ma magari alle sue telecamere, qualcuno anche le guardie del corpo, insomma. Quindi per cui più si sale di rischio, più la valutazione del rischio è alta, più uno deve provvedere a fare degli impianti. Più è basso il rischio, più il ladro presume che non ci siano sistemi di sicurezza. Sì, sentiamo un attimo Giacomo. Giacomo, buongiorno. Sì, pronto, buongiorno. L'ascolto. Sì, niente, io le volevo dire questo. Dopo anni di sacrifici, chiaramente ho comprato una villa, però chiaramente l'ho comprata tipo a giugno, dopodiché a dicembre già sì, dopo sei mesi ho avuto l'intrusione chiaramente dei ladri, dove hanno rubato tutto nel tempo di mezz'ora. Con voi in casa, con tutta la famiglia in casa o eravate fuori? No, no, noi ci hanno sicuramente puntato, nel senso che ci hanno puntato nel momento in cui siamo usciti, ci hanno aspettato, ci hanno atteso, sono entrati, tra l'altro l'allarme è collegato anche con i metronotte e tutto, però non hanno fatto in tempo. Dopo un mese sono ritornati di nuovo, ma chiaramente avevano già rubato tutto, ma non penso che siano stati la stessa mano. Pensiamo che siano stati anche degli zingari, gli stessi zingari di quelli che erano ad Agrigento, che avevano una sera ad Agrigento, perché per esempio c'era qualcosa in argento e non l'hanno toccato, perché si sa che chiaramente loro l'argento non lo toccano. Melog 2.0. In Italia ogni 2 minuti avviene un furto in abitazione. 70 abitazioni su 1000 in un anno. È così che i ladri penetrano in case e appartamenti, forzando le porte o le porte e finestre dei terrazzi, rompendo i vetri delle finestre e delle porte, passando attraverso lucernari e finestre di cantine, scalando i balconi, le terrazze e i tetti di facile accesso, penetrando attraverso locali secondari e autorimesse, approfittando della disattenzione degli occupanti che possono aver lasciato porte e finestre aperte. .800 24 0024, stiamo raccogliendo testimonianze e domande sulla possibilità che qualcuno entri a casa nostra. Entri per rubare, entri comunque per mettere le mani nelle nostre cose, entri comunque al di là della nostra volontà. E questo probabilmente è uno dei più minacciosi incubi che coglie l'umanità proprio in questo periodo. Questo sembra che sia il periodo in cui le case sono più aperte, le case sembrano più disponibili, in cui si sta anche meno in casa, in cui per certi periodi si abbandonano le case e quindi inizia la paura. Chi è? I ladri! Quello che ci ha dato questa informazione è proprio uno stronzo. Qui si rimediamo 200 milioni, siamo fortunati. Era meglio che me ne andavo al mare. Almeno piava il sole e mi facevo qualche cabina. Che aspettate a difendervi dai furti nelle vostre abitazioni? Basta con le indecisioni sul sistema di allarme. Allarme economico o allarme costosissimo? Allarme tradizionale o allarme senza fili? Qual è l'allarme migliore per me? Ecco alcuni dei nostri sistemi avanzati di sicurezza. Telecamera a colori per sorveglianza interna ed esterna, fornisce immagini sempre perfette di ciò che registra. Rilevatori di effrazioni. Si tratta di contatti magnetici che scattano in conseguenza di tentativi di apertura di porte, finestre, serrande e tapparelle e trasmettono le rilevazioni alla centrale. Attivano una sirena interna ed esterna di oltre 120 decibel che avverte il cliente con messaggi SMS. La rete è piena, pullula di sistemi di sicurezza acquistabili anche a poco prezzo, anche senza il necessario attestato di validità. Insomma, visto che c'è una paura così diffusa, c'è chi anche cerca comunque di dare risposte immediate, risposte pronte. Noi abbiamo qua là colto alcune delle offerte mirabolanti e ve le abbiamo riproposte. Sistema di infrarossi a tenda. Vi proteggono grazie a un raggio che forma una sorta di muro invisibile, il cui attraversamento dà luogo all'allarme. In alternativa, sistema di infrarossi che rilevano la presenza dell'intruso nella proprietà attraverso le variazioni di temperatura nell'ambiente, dovute a movimenti di corpi caldi. E infine, per chi possiede una casa con giardino, sistema interrato di allarme. Un sistema da installare sotto il livello del terreno. È completamente invisibile e permette di rilevare ogni forma di intrusione umana, ignorando i piccoli animali e i volatili. Ciro Raia, responsabile della PES, azienda specializzata in sistemi antifurto e antiintrusione per edifici civili e industriali. Noi abbiamo preso le cose che più ci divertivano. Ciro Raia, lei ha conoscenza e giudica attendibili questi sistemi? La casa trasformata come la sede della Spectre sembra quasi qualcosa di che va oltre le nostre possibilità di concepire un sistema di sicurezza. Ma vede, tutto quello che è stato detto è tutto giusto. Prima avevamo detto che bisogna fare per gradi, no? Quindi pensare che a casa propria ognuno deve farsi l'impianto come fosse un vestito, no? Quindi per cui guardi un esempio banale, prima abbiamo sentito che un signore compra la casa a giugno e poi subisce il furto. Due volte di seguito. Ecco, e non aveva l'antifurto. In realtà sarebbe meglio spendere due... No, no, lui ha detto ce l'aveva, ci aveva collegato addirittura con Metronotte. Ah, però no, allora non ho sentito. Però non dice, non ha fatto in tempo, che hanno fatto talmente veloce che a tempo che arriva al Metronotte già è svaleggiato. Certo. Quindi per cui era tutto ben chiaro. Mi è sfuggito questo. Sì, però sì. Allora chi non ce l'ha in questo caso, quindi compreso la frase... probabilmente converrà farlo, e farlo però a misura d'uomo, cioè quindi in base al rischio che corri, no? Quindi per cui una valutazione generale bisogna fare. No, c'è da dire, signor Raia, che se una casa è un po' isolata e i ladri hanno il tempo materiale per compiere l'effrazione, non c'è antifurto collegato alla polizia che resista, perché in questo caso un tempo bisogna... fisiologico ci vuole per venire, se loro fanno prima... Sicuro, però in questo caso bisognerà fare attenzione e fare in modo che non l'impianto intervenga prima possibile, quindi vuol dire perimetrare l'esterno, ad esempio come l'impianto che si parlava prima, interrato, ottimo prodotto sicuramente, questo può essere, diciamo, il primo deterrente, quindi fare l'impianto è un po' una mia frase che dico spesso, a cipolla, no? Quindi io devo proteggere il centro della cipolla, quindi devo andare a pensare piano piano in base al rischio o le distanze, infatti parliamo in questo caso di una casa isolata e quindi anche se collegata magari poco raggiungibile, magari raggiungibile dopo un quarto d'ora, mezz'ora, certo che il furto avviene in pochi minuti, quindi queste valutazioni vanno fatte e bisogna fare in modo che l'intruso, l'eventuale intruso venga, viene rilevato prima possibile. Quindi senta, non io quando... mi ricordo una cosa, ho avuto in mente un particolare, vorrei sapere se è usato anche dai suoi clienti. Fui ospite un periodo di un'amica mia che abitava a Nairobi, che era una città flagellata da una sorta di mafia locale, sanguinosissima, sanguinarie e ferocissime, che entravano nelle case come nulla fosse e uccidevano, stupravano e rubavano. Questa amica mia si era fatta fare un'inferriata di fronte alla camera da letto, in modo che la zona notte fosse isolata, e mi disse che era una sorta di meccanismo di sicurezza che molte famiglie europee che vivevano lì lo facevano tranquillamente, cioè isolare la zona notte proprio con un'inferriata, che perlomeno lì non possono entrare. Sì, sì, sì, sì, è un'idea che non è, diciamo, confermo che qualche in Italia si sta verificando, e qualcuno ad esempio crea la zona notte che si può addirittura chiudere come un bunker, cioè quindi per cui l'ideale, allora lì dove abbiamo questi rischi oppure queste paure, che tenga conto di una cosa fondamentale, che lei oggi ha detto una cosa importante. Non è il denaro o l'oggetto che portano via che conta, ma la psiche, cioè il problema di cosa lascia, no? Un furto o quando siamo in casa. Sì, perché è inutile nasconderci dietro un dito. Oggi molte volte, oltre che rubare, compiono anche atti di violenza, sì, bastonano, sì, picchiano, stuprano, esatto. Anche al di là di ogni ragionevolezza. Esatto. Abbiamo a che fare con persone di una spietatezza che va oltre Totò e la banda del buco, tanto per dirci. Infatti. Quindi lì effettivamente si può pensare ad entrare in una, diciamo, in un meccanismo diverso, che oltre l'antintrusione fare una zona riservata, chiamiamola tale, quindi zona notte riservata, dove nel momento del bisogno possiamo rimanere chiusi all'interno con magari oggetti che, tipo telefonini che ci possono aiutare, oppure una ricetrasmittente che possiamo parlarci all'esterno e quindi aspettare l'evento. Che certo, poi l'evento le nostre notti con idee molto romantiche dei momenti dedicati al riposo e alla piacevolezza diventeranno ben tristi. Sentiamo qualche ascoltatore, così il signor Raia poi ci può rispondere anche nello specifico. Nella, buongiorno. Buongiorno, senta, io volevo esporre la mia esperienza di una decina d'anni fa. Io abito al primo piano di un condominio qui a Torino e avevo installato la porta blindata, perché ho sentito prima che diceva che generalmente entrano dalla porta centrale. E invece i ladri a casa mia si sono arrampicati su per il tubo del gas, si sono introdotti nel terrazzo, mi hanno rotto la tapparella e dalla tapparella hanno spaccato i vetri della cucina e hanno aperto la porta, sono entrati dentro in pieno giorno, però questo. E io la sera, quella era una domenica, me la ricorderò sempre, e siamo arrivati a casa e abbiamo trovato l'androne lì del condominio tutto spalancato. C'era una ragazza, probabilmente faceva da palo ancora, perché io sono salita su, ho detto ma che strano, è tutto aperto in questo condominio, cosa è successo? Erano entrati. Sì, ma apro la porta centrale e tutto a posto, ho detto meno male, perché mi era già preso il batticuore. Quando entro in cucina avevo tutto il suo quadro, i vetri rotti, la camera da letto tutta completamente ribaltata, tutti i vestiti, i cassetti, tutto fuori. E cosa mi sono messa a urlare giù per le scale, guardi, mi ha preso proprio uno spavento, proprio come dice, non si può descrivere quello che si una brutta esperienza, però come l'ha detto il signor Raia, lei capisce che oggi anche gli accessi perimetrali della casa vanno salvaguardati perché esistono specializzazioni molto raffinate. Orazio, buongiorno. Sì, buongiorno. Tre furti abbastanza pesanti ha subito. Ma io sì, alcune intrusioni leggere e tre furti invece abbastanza pesanti, in uno addirittura mi è stato rotto un muro per entrare in casa. Io ho la fortuna e sfortuna da questo punto di vista di vivere in una bella casa, tutta piano terra. Cioè come nella banda del buco, proprio hanno sfondato la parete. Dall'appartamento accanto. Esatto, probabilmente ritenevano che da quell'ingresso non ci fossero allarmi, probabilmente hanno visto. Ecco, io poi oltretutto un allarme abbastanza sofisticato e all'epoca avevo due cani di grossa taglia, ora ne ho uno, me ne è rimasto uno. Però premetto che io i cani li ho perché amo i cani e non per come strumento, diciamo. Comunque il cane le è servito? Assolutamente no. Non è servito a niente. Assolutamente no, per fortuna non è successo nulla ai cani. Ed ora, diciamo, dopo questi tre furti dove mi sono stati rubati dei quadri importanti, eccetera, io ho un atteggiamento abbastanza fatalista, diciamo, perché mi sono reso conto che tutto sommato sia il pago una cifra abbastanza alta la vigilanza che dovrebbe arrivare appena scatta l'allarme, ho notato sono sempre arrivato prima io. Sento che ha degli uccellini da guardia nel sottofondo. Sono nel giardino di casa, sì, no, pensavo che fosse un sistema sofisticato come nelle trincee durante la prima guerra mondiale, sì, tenendo gli uccelletti per sentire i gas. Quando chiamo da casa mia mi chiedono sempre se sono in una voliera, al solito. Va bene. Perché ci sono molti uccelli e diciamo che alla fine loro non arrivano sempre molto dopo, nonostante la vicinanza, anche chiamando al telefono delle forze, diciamo così, non arrivano, per cui io sono arrivato alla conclusione che tutti arrivano un attimo dopo per non rischiare. Non le resta che sperare negli uccelli che diano l'allarme e facciano quello che non ha saputo fare il cane a suo tempo. Melog 2.0. L'arte dell'ipnosi dilaga tra i ladri. Dopo Iesi, Perugia e Torino è successo anche a Treviso. Persino uno dei poliziotti che li ha catturati ci è cascato. I poliziotti hanno dato una dimostrazione pratica riuscendo a intascare al poliziotto 50 euro. La tecnica usata dai rapinatori è semplicissima. Ame gli occhi, dicevano più o meno così i due ladri, e le vittime consegnavano i soldi senza esitazione. Mi ha confusa, non capivo in quel momento quello che stavo facendo. Questa commessa è solo l'ultima vittima. Facevano fino a 10 colpi al giorno. 800 24 00 24. Parliamo di furti in casa. Mi fa piacere, a un certo punto di vista mi fa capire che il trauma è difficile elaborare, il fatto che molti telefonino per parlare di furti avvenuti decine di anni fa. Raramente sento, vedo scritto mi hanno rapinato una settimana fa, un anno fa, sei mesi fa. Tutte esperienze di 10 anni fa, come quella di Maria. Maria, buongiorno. Buongiorno. 10 anni buongiorno fa fu rapinata in casa. Dunque, sono stata rapinata in casa. Io ero stata sveglia fino alle 2 di notte perché aspettavo i figli che rientravano dalle uscite serali. Avevo un pitbull. Sacrificio di mamma, non ci faccio sentire in colpa. Quante volte le nostre mamme stanno alzate? Ma perché le mamme stanno alzate? Non ho mai capito. Non ero alzata, ero a letto, ma... È ancora peggio, lì, con gli occhi sbarrati, aspettare con l'orologio in mano. Esatto. E quindi quando sono rientrati verso le 2 di notte io mi sono addormentata di colpo, poi a un certo punto mi sono alzata perché ho sentito un qualcosa che non andava, perché avevo il sonno molto leggero. E ho visto che il mio corridoio era molto buio perché c'era la zona notte e la zona giorno, però non ci ho badato molto, sono rientrata a letto. E la mattina, quando ho visto che la porta del corridoio non si apriva, sono passata dal balcone alla parte della cucina e ho trovato ogni ben di Dio. Erano entrati. Non erano i figli, quindi, essere entrati. Che avevano addormentato. Come? Non erano i figli ad essere rientrati, quelli che ha sentito rientrare alle 2. No, erano i figli perché l'ho chiamati. Ah, quindi erano i figli che erano ciucchi, fradici, quindi non sono svegliati per niente. No, quelli no, per carità, erano ancora troppo piccoli per bere. Comunque, piccoli nel senso che avevano 20 anni. Non beh, a 20 anni, guardi, onestamente, qualche vago ricordo di rientri a quattro gambe. Comunque era un po' diverso 20 anni fa. E quindi niente, poi ho visto di tutto, erano entrati in casa dentro la mia camera da letto, mi avevano preso tutto l'oro che portavo giornalmente, che poi era quello più bello, hanno ripulito tappeti, argenteria antica, di tutto, il pitbull non si è nemmeno svegliato. Pensi che quanti soldi buttati in un pitbull. E quindi vi hanno narcotizzato come entrambi? Esatto, ci hanno narcotizzato perché eravamo intontiti. Poi la mattina soprattutto mio marito era leggermente intontito. Ah, c'era anche suo marito in tutto questo? Sì. E non l'ha mai nominato in tutta questa storia? Sì, i figli grandi, di oltre 20 anni, insomma. Quindi vabbè, marito addormentato, figli addormentati. Invece Carlo pensa che sia una leggenda metropolitana il furto con la bomboletta. Carlo, no, buongiorno. No, buongiorno, non è una Nicoletti. Leggenda metropolitana, è la verità. Proprio così. Aspetti, che non vi parlate sopra. Carlo, sente, Maria dice che lei è stata narcotizzata, lei dice che non è possibile. Ma non è possibile, senta, c'è il cloroformio che è tossico e non viene usato da decine di anni. L'etere che è infiammabile ed esplosivo. L'unica cosa in letteratura che c'è stata in un tentativo di addormentare in un locale è quando c'è stato l'assalto ceceno a quella... Oh sì, ma era una raffinata arma antisommossa di corpi speciali. Voglio dire che si immagini se un ladro, visto che gli capita anche all'anestesista, che qualcuno ci lasci la pelle, che possa anestetizzare una casa intera... Lei è anestesista? No! Però ha cognizione di questi materiali, di questi prodotti. Li ho usati per addormentare gli animali per operazioni di farmacologia e gli scappa, se non stai attento te ne muore uno su due. Ma si immagini se il dosaggio può andare bene per un bambino, per un anziano. È una palla grossolana e purtroppo continuano, anche il suo esperto dice che ci sono... Però guardi, adesso potrei anche avere raccolto testimonianze fallaci, ma ho molti amici che mi raccontano esattamente quello che racconta la signora. Stavamo a letto, improvvisamente non siamo accorti di nulla, o hanno tutto il sonno molto pesante. Ma guardi, c'è uno dei nostri ascoltatori che ci chiama, che forse può darci dei lumi. Paolo, buongiorno. Buongiorno. Allora, Paolo è ufficiale dei Carabinieri, nostro ascoltatore, ci chiama per darci qualche lume in più su quello che stiamo dicendo. Lei, Paolo, nella sua esperienza professionale, ha sentito mai parlare di questi narcotizzatori che entrano in casa? Allora, io saluto tutti gli ascoltatori, premetto che sono stato un comandante territoriale dell'Arma dei Carabinieri, un comandante di compagnia e nel mio territorio purtroppo mi sono trovato più volte a fronteggiare il fenomeno di questa criminalità predatoria che tocca l'intimità delle nostre famiglie. Allora, io posso dire che sulla base della mia esperienza non ho mai documentato l'uso di queste sostanze. Ipotizzo sempre sulla base di un'esperienza limitata alla mia persona, che dobbiamo fare i conti con l'incredulità della vittima che constata la presenza di estranei nella propria casa, a danneggiare la propria intimità, a privarlo dei propri affetti, dei propri oggetti materiali e non se ne sa dare una spiegazione. E quindi si crea molte volte una giustificazione concreta che non esiste, potrebbe essere. Io vorrei veramente... rasserenare su questo punto e dire che non sono a conoscenza di dati di esperienza che indichino la realtà di questo fenomeno. Quindi, no, questo è un dato importante, poi tutto può essere rimesso in discussione, il fatto che questo misterioso spray narcotizzante, come ci diceva il signore poco prima, sarebbe poco maneggiabile, poco facile da dosare, fa sì che molte volte non è che ci hanno narcotizzato, dormiamo alla grossa oppure molte volte sottovalutiamo rumori che sentiamo per casa. Guardi, io vorrei andare oltre questo punto. Sì, allora dica lei dal suo punto di vista che consigli può darci brevemente, sinteticamente. Volentieri, allora, per le forze dell'ordine, non solo per l'Arma dei Carabinieri, il controllo del territorio è ormai una sfida prioritaria. Purtroppo il controllo delle nostre giurisdizioni si scontra localmente con le risorse a nostra disponibilità. E questo è un problema che conosciamo bene, sì. Quindi il compito del comandante ad ogni livello è cercare di gestire al meglio le proprie limitate risorse per contrastare il fenomeno. Quindi noi non possiamo essere dappertutto, e quando abbiamo a che fare con dei professionisti che fondano la propria vita su queste attività, rischiamo a volte di essere altrove quando il reato si consuma in un momento in cui appunto la nostra pattuglia non è presente. Quindi questo vuol dire che necessariamente ci deve arrivare ad un livello di responsabilizzazione del cittadino, che deve evitare tutte quelle classiche ingenuità tipo lasciare la finestra aperta la notte perché fa caldo, o dimenticarsi le macchine e la chiave inserita nel cruscotto della macchina. Da questo fino a toccare le responsabilità degli amministratori locali, perché molto si può fare per mettere in sicurezza i nostri marciapiedi e i nostri quartieri, partendo dall'illuminazione pubblica, che poi sacrosanto, questo è vero, sì. E poi incide fortemente sulla percezione della sicurezza che i nostri cittadini hanno. Ma andando nello specifico, io vorrei dare due indicazioni molto precise. Allora, nelle case di tutti gli italiani c'è almeno un oggetto di valore che viene tramandato per storia familiare. Non parliamo poi di tutte quelle persone che per loro fortuna hanno la passione dell'antiquariato, degli oggetti di pregio. Benissimo. Oggi anche la tecnologia è appetibile, anche un videoregistratore, un apparato di riproduzione di DVD, una telecamera, i telefonini. Penso che da rubare tutti abbiamo qualcosa in casa. Assolutamente, ma per l'oggetto d'antiquariato noi possiamo fare molto... realizzando una buona documentazione fotografica, compilando una scheda, perché lei capisce, dottore, che quando un oggetto d'antiquariato dal furto poi passa nel mercato clandestino e viene ricettato, può essere reso al legittimo proprietario che ha subito il furto soltanto se è stato accuratamente documentato. Quindi fotografatevi tutto quello che pensate che abbia valore in casa e tenetevi un DVD con tutte le foto delle vostre belle cose. Non si sa mai che un domani possa essere l'unica maniera per ottenere il possesso di quegli oggetti. Andrei oltre dicendo che presso i nostri comandi stazione esiste una scheda, uno standard, un format che è stato sviluppato di concerto con il ministero competente, che poi dà all'operatore di polizia tutte le informazioni utili per identificare nella clandestinità e quindi attribuire l'opera d'arte recuperata o l'oggetto d'antiquariato recuperato al suo legittimo proprietario. Quindi questa è una cosa da non trascurare. La seconda è questa. Voi avete giustamente parlato di tutti i servizi offerti dal mercato per la protezione della proprietà. Io devo ricordarvi che è possibile tecnicamente attivare un allarme con richiamo telefonico presso le nostre centrali, presso il 112 dell'Arma dei Carabinieri. E anche questa è una richiesta che può essere esperita presso i nostri comandi stazione. In buona sostanza il tecnico realizza l'impianto. L'impianto fa capo a una centrale telefonica che inoltra un allarme. A questo punto è possibile fare in modo, senza spesa per il cittadino, fare in modo che quel segnale di allarme arrivi sul desk dell'operatore della centrale. E poi diventa affare vostro. Io la ringrazio, comandante, siamo arrivati in finale puntata. Ringrazio anche Ciro Raia che ci ha così sapientemente illuminato sistemi di sicurezza, e non so che dirvi. In bocca al lupo, speriamo che non succeda a voi. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog 828 1111. Melog va in replica questa sera alle 22:00.